A tempo di sport di Gigi Garanzini. Vedi Napoli e poi hanno titolato stamane alcuni quotidiani, in effetti quella di domani sera ha tutta l'aria di essere la partita d'addio, il passo d'addio di Ciro Ferrara. Stamane un lungo incontro in società con alla presenza, vado a ricercare l'agenzia, alla presenza di, eccolo qua, il presidente Jean-Claude Blanc, il vice direttore generale Roberto Bettega, il direttore sportivo Secco, sono stati al centro sportivo di Vinovo prima dell'allenamento della Juventus, poi i tempi sono slittati perché evidentemente il confronto è stato particolarmente lungo e approfondito, da qui lo slittamento alle 14.30 di questo incontro tradizionale di vigilia tra allenatore e stampa. Seguiremo insieme eventuali sviluppi, anzi io li anticiperei a subito, visto che come ogni martedì dall'altra parte del microfono c'è il ministro degli esteri Fabio Tavelli. Ciao Fabio. Buongiorno Gigi, grazie. Buongiorno. Per il ministro come sempre. Caro ministro, lo spareggio sembra essere tra Hiddink e Zoff, ma mi par di capire che una mossa burocratica compiuta ieri dalla Federazione Russa indica questa pista come la più attendibile per la Juve. Sì, questa è la pista apparentemente più attendibile. Credo che da un lato ci sia da parte della dirigenza bianconera questa fiducia a tempo, ma che tutti hanno capito essere effettivamente a tempo e forse nemmeno più tanto legata ai risultati, che comunque tanto buoni non potranno essere visto come si è messa la piega. Quindi credo che il destino di Ferrara sia segnato. Sì, la sensazione è che Hiddink costi troppo per il momento e che quindi con tutta probabilità la Juventus ci stia riflettendo tanto. Per due motivi: il costo dell'ingaggio di Hiddink, ma il vero problema credo sia la costruzione di un progetto, cioè la Juventus è ancora evidentemente un cantiere in costruzione, ovviamente si aspetta giugno di quest'anno perché con tutta probabilità Marcello Lippi possa prendere le redini sotto la forma che poi la Juventus sceglierà, e quindi ci sono degli incastri che evidentemente devono andare a buon fine in maniera precisa, e credo che l'impasse sia dovuto soprattutto a questo, cioè quello che ha salvato Ferrara finora è la carenza di alternative immediate, cioè non ci sono allenatori in questo momento che possono essere presentati alla piazza juventina al posto di Gus Hiddink, cioè Gus Hiddink è l'unico nome che i tifosi in questo momento gradirebbero. Credo che non gradirebbero nemmeno l'ipotesi del traghettatore Dino Zoff, con l'immenso rispetto che tutto il mondo del calcio deve avere nei confronti di un galantuomo e di un eccellente anche allenatore, perché anche da allenatore ha avuto dei successi come Dino Zoff. Credo che proporlo oggi alla piazza juventina non sarebbe una mossa sensata, e quindi c'è soltanto la strada Hiddink. Però ripeto, Hiddink significa ricostruire un progetto, Hiddink significa ricominciarlo da capo. Il progetto era riportare Cannavaro, farlo giocare, farlo diventare dirigente, utilizzare Ferrara come allenatore, il ritorno di Marcello Lippi. Ecco, con la presenza di Gus Hiddink io non so se tutte queste tessere sarebbero comunque al posto che Blanc e John Elkann avevano pensato mesi fa quando lo hanno progettato questo disegno. C'è anche un altro aspetto, Fabio, a parer mio, che è questo. Per una grande società, parlo di Juventus, parlo di Inter, parlo di Milan, il licenziamento di un allenatore è comunque sempre una sconfitta, è vissuto in modo molto più traumatico che non in società di routine. Se una società è gestita da Zamparini si sa che gli allenatori vanno e vengono, se si chiama Juventus, allora la Juventus è già reduce da un trauma da questo punto di vista, che fu quello dello scorso anno con la mossa letta oggi terrificantemente sbagliata della cacciata di Ranieri, no? a poco dalla fine. Ora Il licenziamento adesso di Ferrara sembra essere una mossa obbligata, perché in effetti quella della Juventus, per tante ragioni, compresa e forse in evidenza massima la moria di giocatori progressiva che si registra, mi pare di aver letto stamane che sono a 15 pedine utilizzabili in questo momento, e tra quelli fuori ci sono alcuni dei giocatori più significativi e più forti. Però la seconda sconfitta di immagine, se non altro qual è quella di andare a pigliare Emiliano è un allenatore part time, è in questo che io mi rivolgo alla tua competenza territoriale, anche, cioè extraterritoriale, visto che sei ministro degli esteri. E cioè, può una società come la Juventus non solo cacciare l'allenatore, ma poi accontentarsi di un part time con un'altra squadra, sia pure una nazionale? Guarda, due cose. Io intanto non credo che l'arrivo di Gus Hiddink faccia immediatamente guarire gli ammalati, quindi Ferrara potrà sempre dire che non ha mai potuto avere a propria disposizione l'intera rosa, ed è vero, perché la Juventus ha avuto davvero un'ecatombe di infortuni eccellenti, davvero dal numero 1 al numero 11 con la vecchia numerazione. No, per quanto riguarda il discorso, la Juventus, secondo me, se noi continuiamo a pensare alla Juventus e pensiamo alla Juventus di Agnelli, Boniperti, di Agnelli 1 e 2, di Boniperti e così, ma anche a quella di Moggi e Giraudo, e Bessega, è una Juventus che l'allenatore praticamente non lo licenziava mai. Però io credo onestamente che non si debba più fare quel parametro, nel senso che questa Juventus è una Juventus diversa, sono diverse le persone, sono anche diversi i tifosi, gli stessi tifosi della Juventus, abituati per anni a grandi vittorie o comunque a palcoscenici importanti, non avrebbero mai inscenato situazioni come quelle che abbiamo visto in questo periodo. Quindi considerare la Juventus con il metro dello stile, del vecchio stile Juventus, io credo che non sia giusto, perché quella Juventus non c'è più. Cioè, la Juventus nell'anno di Serie B, da quella Juventus andò via Deschamps una volta che aveva praticamente già conquistato la promozione in Serie A. Quello che gli si era chiesto, tra l'altro. Esattamente. Ranieri è stato mandato via due giornate dalla fine. Lo stesso Ferrara è stato tenuto per assenza di alternative, perché io ricordo bene quel periodo. Blanc chiese una settimana, 10 giorni di tempo. Insomma, se credi a un allenatore lo confermi un minuto dopo che è finito il campionato, non aspetti dei giorni. E quindi secondo me quella Juventus che abbiamo conosciuto in anni passati non c'è più. E quindi se la Juventus prende un grande allenatore, che poi lo prenda part time, ma è un part time teorico, perché insomma la Federazione Russa ha dato il via libera, io credo che Hiddink nel giro di poco si libererebbe anche dall'impegno con la Russia. La Russia non va ai mondiali, quindi Hiddink può iniziare immediatamente a lavorare. Io credo che Hiddink sia in circolazione il miglior allenatore disponibile, certo. Non al 100%, ma sia comunque il migliore. Con tanto di dimensione, soprattutto internazionale, perché poi non va dimenticato che se la Juventus recupera qualche infortunato e riesce a passare questo momento, è pur sempre in lizza nella seconda coppa, non si chiama più UEFA, è quella, insomma, come si chiama adesso? Quella che non è la Champions. Si chiama Europa League. Europa League. Che è comunque una competizione alla quale sono iscritte delle squadre importanti, e che vincerla è meglio che non vincerla. Anche se va detto, io ero rimasto all'UEFA e mi ero incartato un attimo, perché mi stava tornando in mente che anche Zoff comunque una Coppa UEFA l'aveva portata in bacheca alla Juventus nel suo piccolo mondo infelice, no? Visto che è sempre stato un po' sottovalutato. Non c'è dubbio, io credo che Dino Zoff sia stato uno straordinario allenatore, e credo anche che quella Juventus, quella di Zoff, fosse l'unica che mettesse realmente in difficoltà il Milan di Sacchi, e lo faceva, perché Milan di Sacchi faceva una grande fatica. Pur essendo nettamente inferiore sul piano della rosa, sul piano del... Ma non c'è dubbio, ma perché Zoff è un conoscitore di pallone come pochissimi al mondo. Però credo anche che un uomo del 42, credo che sia Dino Zoff, che da qualche anno vive a Roma e che ha una dimensione di vita completamente diversa, io credo che buttarlo in un agone così, io so, perché ce l'ha detto Federico Ferri in questi giorni, che Bettega l'ha chiamato parecchie volte, e che quindi questa non è un'ipotesi giornalistica, questa è un'ipotesi che è filtrata, ma perché è filtrata da un qualcosa che la Juventus sta pensando. Qualcuno aveva pensato nei giorni scorsi anche a Giovanni Trapattoni, ma anche questo sarebbe stato un part time, anche con un allenatore che comunque non andrebbe a fare il mondiale. Però sono tutte ipotesi, Gigi, che ci riportano indietro, non portano avanti. Sono ipotesi a tempo, evidentemente. E sono ipotesi che fanno tornare indietro e non andare avanti, seppur con grandissimo rispetto. Spostiamo il tiro sulla Coppa d'Africa, che è cominciata nel modo peggiore, insomma, è usare un eufemismo. Mi ha colpito una dichiarazione di Desailly stamattina, nemmeno poi particolarmente originale, però bella per la sua secchezza: non si gioca a calcio dopo che ti hanno ammazzato due compagni di squadra. Ecco, io credo che questa sia la sintesi di quello che arriva dall'Africa in questo momento. Non ci sono commenti possibili, Gigi, a una frase del genere. È lapidaria, e uso proprio questo termine, ed è una frase che... Sì, esattamente. No, va, ripeto, non può essere commentata. Hai detto bene, va rispettata, va ascoltata in silenzio, sì, e non commentata. Se invece non si possono dire cose, credo che non si possano dire cose né originali né intelligenti. No, ma assolutamente. Su quello che riguarda il Togo certamente no. Su tutto quello che invece sta poi accadendo, perché comunque anche la Coppa d'Africa, come la vita, va avanti. Mi pare che sia cominciata in una maniera abbastanza singolare, cioè l'Algeria che si fa strapazzare dal Malawi, prima ancora quella rimonta pazzesca del Mali che perde 4-0, un quarto d'ora alla fine, la partita finisce 4-4. Cos'è? È che questo vento di follia violenta poi si è ripercosso anche in una follia calcistica molto più sana, per fortuna, molto più rassicurante, oppure perché in genere gli avvii di Coppa d'Africa soprattutto, ma la Coppa d'Africa in genere è sempre stata caratterizzata da grandi equilibri, no? da pochi gol, da difese attentissime, eccetera. Invece qua tutto mi sembra un po' di segno diverso. Ma guarda, io trovo che intanto la collocazione del calendario della Coppa d'Africa sia ormai anacronistica. Cioè, andava bene quando i giocatori africani in Europa praticamente non c'erano, erano di secondo piano, e non è possibile organizzare una manifestazione così importante nel mese di gennaio, quando tutti i campionati, poi ci sono quelli un po' fermi come la Bundes o il campionato francese, ma comunque, cioè, quando sono in corso tutti i grandi campionati, e a ridosso poi di una ripresa con la Champions League. Quindi, cioè, la Confederazione Africana deve mettersi in testa che quella collocazione devono fare come la Coppa America, devono giocarla da giugno in avanti. Io capisco che poi le temperature saranno insopportabili in Africa da giugno in avanti, ma si può comunque giocare la sera tardi. Da un punto di vista qualitativo, la Coppa d'Africa è sempre stato un torneo che, hai ragione tu, all'inizio era un po' bloccato, però esprimeva delle cose. Io nelle prime partite che ho visto tanta confusione. Non è pensabile nel calcio di oggi una squadra che prenda 4 gol dopo che ne ha segnati 4. Il Mali è una buonissima squadra, ma dimostra che queste sono partite totalmente ingovernabili, e la stessa sconfitta dell'Algeria, che è comunque una nazione evoluta, ti fa capire che non ci siamo. Io ho il sospetto davvero che molte di queste formazioni siano messe insieme in qualche modo. Teniamo anche conto del fatto che il tempo per loro di ritrovarsi e di radunarsi è stato molto poco. Facciamo il conto di quanto tempo avranno a disposizione i commissari tecnici delle nazionali, sì, per i mondiali in Sudafrica, e qui avevamo Eto'o che magari non poteva partire e si è unito il 4 di gennaio, e la settimana dopo il Camerun è in campo. Quindi, francamente, mettere insieme una competizione seria in queste condizioni, oltre a quelle ambientali, a me francamente pare davvero difficile. Sono d'accordo completamente con te. Slittate di un'altra mezz'ora, alle 15, la conferenza stampa di Ferrara, ma non perché ci sia qualcosa che bolla in pentola, semplicemente perché la Juve si sta allenando, e quindi sono slittati gli orari. Ferrara deve prima concludere l'allenamento. L'altro argomento che ho trovato stamane su Repubblica, sviluppato in maniera particolare, ma anche altrove come un'anticipazione, è questa: il progetto doveva scattare dalla stagione prossima, cioè dal 2010-2011. Chi gioca il martedì in Europa può chiedere in campionato l'anticipo al venerdì, fin dai primi turni. Ma esigenze di calendario hanno spinto i club ad anticipare la svolta già a questo campionato, sicché in previsione di Manchester United-Milan e poi di Inter-Chelsea, il Milan ha chiesto e otterrà di giocare il venerdì 12 febbraio in casa con l'Udinese, e l'Inter sarà a Catania venerdì 12 marzo e il 16 giocherà a San Siro col Chelsea. Ora, credo che come uomo di Sky non potrai dolerti di questa, no? Aziendalmente, intendo dire. No, devo dire, Gigi, no, però non è che cambi moltissimo, perché in realtà, sì, da un certo punto di vista, il avere un anticipo forte il venerdì, ma comunque ce l'avevi il sabato, non è che cambia, e l'anticipo del sabato si andrà a impoverire tantissimo la domenica. A questo punto, la domenica pomeriggio davvero saranno poche partite, e sarà abbastanza triste. No, però questo televisivamente, però insomma noi qui parliamo d'altro. Io credo che ovviamente, ma qui è la banalità fatta persona, un giorno di riposo faccia sempre bene. Io continuo a pensare che si guardi sempre a una parte del problema, cioè tu giochi prima e il problema sarà che qualcuno poi dirà: ecco, abbiamo giocato venerdì perché eravamo stanchi e ci hanno costretto magari a giocare la domenica sera. O magari se in futuro si giocherà il lunedì, il Monday night come in Inghilterra. Ora, giocare un giorno prima significa che avrai però un giorno in meno rispetto alla partita precedente, no? Magari giocherai domenica e venerdì e qualcuno dirà: ecco, noi abbiamo giocato venerdì e loro si sono riposati di più. Cioè, alla fine la coperta, alla fine non credo. Sì, io non credo che cambi molto. Se te la tiri sulla testa ti si scoppano i piedi, no? Ma per forza, anche perché gli inglesi che hanno l'FA Cup, la Carling Cup, e adesso avranno anche dei problemi seri per rinnestare tutte le partite che hanno dovuto sospendere. Poi comunque mi sembra che qualche risultato negli ultimi anni in Coppa l'abbiano fatto e non mi risulta che ci siano state sommosse popolari per partite che magari non sono state anticipate. A volte è capitato anche che, ad esempio, mi pare che il Manchester United l'anno scorso o due anni fa, a Ferguson abbiano fatto notare che lui abbia fatto giocare la squadra migliore possibile in FA Cup e poi abbia avuto dei problemi in Champions League o accoppiato col campionato. E loro pensano che l'FA Cup sia importante quanto il campionato e quindi giocano sempre con la formazione migliore. Noi in Coppa Italia spesso mandiamo in campo i ragazzini o neanche quelli e quindi abbiamo una mentalità diversa. Cioè, gli italiani arrivano a snobbare l'Europa League, gli inglesi non mollano neanche la Carling Cup, che è il quarto obiettivo di qualsiasi squadra, insomma, così. Capitolo Mancini, 4 vittorie su 4 con quella di ieri sera contro il Blackburn. Mi fa notare Franco Piantanida che, oltre a questo score che non ha precedenti nella storia del Manchester United, nessun nuovo allenatore, ma non subentrato a metà stagione, nessun nuovo allenatore in assoluto ha mai vinto 4 partite su 4, e qui certamente l'ha aiutato il calendario, però mi fa notare appunto la rinascita di Tevez, che è coincisa con l'arrivo di Mancini. In 3 partite di campionato ha segnato 6 gol, prima ne ha segnati altri 6, ma in 16 partite. No, che Tevez sia un grande giocatore secondo me è acclarato, ma è acclarato perché lui ha fatto delle cose straordinarie in Inghilterra, le ha fatte al West Ham, praticamente salvandolo quasi da solo. Al Manchester United ha avuto un rapporto non facilissimo con Ferguson e credo anche la convivenza con Cristiano Ronaldo non fosse particolarmente facile. È un giocatore che, cioè, quando affronta una squadra come può essere lo Stoke City, come può essere il Middlesbrough, quando può essere il Blackburn ieri sera, cioè contro questi avversari lui fa davvero male. Va un po' valutato e parametrato a un livello superiore dove può fare un po' più fatica, però in queste partite lui fa davvero la differenza. Ieri si è portato a casa il pallone e ha fatto 3 gol. È un momento molto fortunato, Gigi, perché ieri il primo gol di Tevez l'ha fatto col ginocchio. Però ci sono momenti nei quali ti va dentro veramente tutto. Certo. Mancini non è sfortunato perché ha trovato un calendario molto, molto buono e anche nelle prossime giornate non avrà subito avversari di grido. Avrà però la doppia sfida in Carling Cup col Manchester United. Ora lì credo che sarà una verifica importante, anche perché, questo va detto come merito di Roberto Mancini, ieri aveva fuori almeno 5 titolari importanti e dover lasciar fuori Kolo Touré, Adebayor, Sean Wright Phillips, Ireland e altri è un qualcosa che, certo, che ti può comunque pesare. Non è uno scherzo. Comunque sì. grande impatto, perché Mancini, certo, tra l'altro, ha preso un solo gol in 4 partite con una squadra che ne prendeva un sacco. Che ne prendeva molti, ma molti di più. Sì. Senti quest'altra curiosità, sempre di Franco Piantanida, su Pujol. Allora, domenica sera contro il Tenerife, Pujol ha segnato il 6° gol in carriera in 313 partite, no, nella Liga. La curiosità è che quando segna Pujol, il Barça ha vinto una volta 4-0, una volta 6-0, una volta 5-0, 5-1, 5-0 domenica e 6-2, quella storica a Madrid lo scorso aprile contro il Real. Quindi Pujol è il talismano. Messi è arrivato a, leggo anche qui altra statistica, è arrivato al 99esimo gol da professionista nel calcio spagnolo. Nessun giocatore di 22 anni di età, ricorda il mondo deportivo, aveva mai segnato così tanto nel Barcellona, ma a quanto pare nemmeno in Spagna, e questo, come dire, accredita, no, il fatto che Messi sia sulla strada di chi sappiamo, ma da un punto di vista realizzativo sia già addirittura ben oltre. No, dal punto di vista realizzativo è certamente ben oltre, e insomma è, può fare 300 gol in carriera tranquillamente Messi se va avanti a questi ritmi, anzi ne può fare anche di più. Su Pujol è curioso, è evidente che lui segna quando il Barcellona dilaga, e questo non è un grandissimo merito, però è comunque un giocatore che non ha grandi colpi in attacco, quindi non mi stupisce il fatto che ne abbia segnati così pochi. Messi è un, vabbè, ormai cosa ne parliamo a fare di Leo Messi, è un genio assoluto del calcio, però attenzione perché il Barcellona quest'anno ha avuto già qualche battuta a vuoto. Io l'ho vista fare un po' fatica in Coppa del Re contro il Siviglia, loro mercoledì andranno a Siviglia avendo perso in casa 2-1. Come no? E potrebbe essere il primo trofeo che scappa questo, per cui stiamo molto attenti, nel senso certo. Che grandissima squadra, giocatori pazzeschi, noi parliamo sempre di Messi, ma c'è un signore che si chiama Iniesta, certo, che sta facendo certo. Una stagione già memorabile adesso. Detto questo, se il Barcellona dovesse andare fuori, come è possibile, contro il Siviglia, anche se il Siviglia ormai è in una fase in campionato abbastanza declinante, io credo che insomma, qualche riflessione sul Barcellona si potrà fare, perché loro hanno vinto 6 trofei. Già se vanno fuori dalla Coppa del Re avranno l'obiettivo di poterne vincere 5, e che in realtà è una sciocchezza, perché anche se ne vincessero 2 o 3 sarebbe comunque un gran prendere, e in molti farebbero cambio. Però comunque sarebbe la prima sconfitta, sarebbe certo. Il primo non titolo preso, e dopo che una squadra sta abituata a vincere sempre... E psicologicamente sarebbe esatto. Ancora diverso. Sì. Grazie Fabio. A voi, grazie Gigi, un saluto a tutti. Chiudiamo il collegamento con Fabio Tavelli. Un primo ascoltatore per anticipare poi i vostri interventi della seconda parte del programma. Moreno, provincia di Milano, buongiorno. Sì, dottor Garanzini, buongiorno. Io sono juventino, come dice lei, Pilibetega e Boniperti messi insieme per il dottor Beccantini, che è una federazione che mi piace tantissimo. Adesso pare che pagherà Ferrara qui, ma a mio avviso parere anche la società non è esente da colpe, anzi, Blanc su tutti, e insomma anche gli Elkan, praticamente sono usciti a demolire tutto in 3 anni. Quindi adesso ok, pagherà Ferrara, ma io quando sento gente che al mattino vuole andare al TAR, al pomeriggio a 29 scudetti e alla sera non si sa quello che penso, io un po' adesso allibito sinceramente. Spero che venga Zoffo, quello sì. Cosa pensa della riunione degli arbitri? Domanda Lori da Milano. Sul razzismo a me sembra non ci sia la voglia di affrontare il problema. Sì, ma non da parte arbitrale, Lori, perché in questa vicenda c'è stato un autogol abbastanza clamoroso del ministro Maroni, che non conosceva il regolamento emanato dallo stesso Ministero dell'Interno, lo ripeto per non so quale ennesima volta, la sospensione di una partita, il mancato inizio o la sospensione di una partita non dipendono dall'arbitro ma dal responsabile dell'ordine pubblico presente allo stadio designato dal Ministero dell'Interno, quindi dato che il Ministero dell'Interno fa capo al Ministro Maroni per l'appunto, ecco che c'è stato questo, come dire, cortocircuito di informazione prima e di comunicazione poi. Gli arbitri ieri mi pare che molto correttamente abbiano invece dato la loro eventuale disponibilità ad assumersi anche questo genere di inizio, cioè a dover giudicare anche in quest'altra sede, come dire, giurisdizionale, se però verrà cambiato questo regolamento di attuazione di cui numerose volte abbiamo anche letto in onda direttamente il testo. Dopodiché sarebbe a parer mio una scelta gravemente inopportuna, perché mi pare che lo Stato abbia già abdicato abbastanza per quello che attiene allo spadroneggiare degli ultra. Io credo che le immagini di domenica sera di quei seggiolini incendiati allo stadio di Torino, nell'indifferenza generale e senza che nessuno si sognasse di intervenire, abbiano fatto il giro del mondo e siano l'ennesima pessima figura del calcio italiano che noi riusciamo ad esportare. Quindi già in quella situazione non c'è più come dire giurisdizione dell'ordine pubblico da parte di chi è preposto, di chi sarebbe preposto, cioè da parte dello Stato all'interno dello stadio. Se poi addirittura all'arbitro aggiungiamo la responsabilità, oltre a individuare i falli, le simulazioni e tutto il resto, di sentire anche i cori e discernere quelli che integrano la sospensione immediata della partita, oppure quelli invece che si possono lasciar correre. Beh, allora mi domando però che cosa ci sta a fare in questo caso, che cosa continuerebbe a starci a fare un responsabile dell'ordine pubblico all'interno dello stadio. Marcello ha chiamato da Milano, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno, mi permette di augurarle buon anno di cuore, da quanto la stimo, tanto che non ci sentiamo. Grazie. Senta, Garanzini, mi riferisco alla partita di sabato, di Inter-Siena, partita a mio parere una delle più divertenti e emozionanti del campionato. Vabbè, io, se lei sa che io sono milanista, credo che Malesani, che ha polemizzato sull'episodio, eccetera, secondo me ha fatto un grande errore. A un certo punto ha sostituito due tra i migliori uomini, Reginaldo e quel ragazzo svedese che ha fatto il gol. Francamente nessuno gli ha fatto questa domanda o questa considerazione, né su Sky né sulla Rai. Volevo sapere da lei un parere, cioè invece di polemizzare sempre sugli episodi, forse magari che conduceva un po' meglio quegli ultimi minuti che il Siena aveva totalmente in mano. Sì, io credo di sapere, insomma, di ricordare che Reginaldo in particolare avesse avuto un problema muscolare e per questo ha chiesto lui il cambio, perché sennò sarebbe stato davvero un cambio, non dico suicida, ma quasi. Perché Reginaldo da solo stava facendolo impazzire da decine di minuti. E quindi nel caso di Reginaldo certamente non è colpa sua. Nel caso di Ekdal, sinceramente non so valutare, anche lì non so quanto Ekdal, che non credo sia un titolare fisso del Siena, non so quanto avesse dato, quanto fosse ancora in grado di dare. Rimane la solita storia che la colpa alla fine deve essere sempre di qualcun altro, no? E in genere dell'arbitro, perché se vai sull'arbitro non sbagli mai, anche se poi sì, insomma, Malesani ha detto una cosa che si poteva risparmiare, ma ne ho sentite di peggiori, comunque, anche da parte di allenatori più celebrati di lui, insomma. Andrea è in linea da Livorno, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Io volevo fare, agganciarmi ai complimenti che ha fatto lei ieri a Cosmi, perché ha dato una svolta ad una squadra decisamente mediocre. E poi, oltretutto, volevo anche parlare un attimo di Candreva, che io ho giocato a calcio, lo vivo da moltissimi anni, mi sembra oggettivamente un po' sopravvalutato, non so se spinto dai procuratori, dall'opinione pubblica. Le garantisco che, avendo visto Candreva tutto questo campionato fino ad oggi, tutto quello dello scorso anno, non è mai stato una volta decisivo se non nel cross che ha fatto a Lucarelli contro il Genoa, guarda caso perché c'era Lippi in tribuna. Solo questo, un brevissimo consiglio ai dirigenti della Juve, mi passi un po' di goliardia, prendano Giordano che lo scorso anno noi livornesi ci ha dato tante soddisfazioni con il Pisa. Grazie e l'ascolto per radio. Grazie a lei. Andrea, legga questo messaggio, invoca Giovanni da Varese, perché lei, come altri giornalisti, avete riportato in maniera faziosa il litigio Ferrara-Maifredi, si vada a riascoltare tutta l'intervista. Allora, due ragioni per il no. La prima non era un'intervista, era uno scontro verbale tra loro. Secondo, dei due, chi si è comportato peggio, l'ho ricavato da una registrazione che ho sentito, è stato certamente Ferrara, che è stato il primo ad attaccare. Però non si possono ignorare i presupposti e i precedenti. Pochissimo tempo prima era uscita un'intervista di Maifredi alla Gazzetta dello Sport, in cui Maifredi spiegava che lui, con quella rosa, e cioè con questa Juventus aveva i giocatori per vincere il campionato. Allora, se uno ricorda i precedenti di Maifredi alla guida della Juventus, capisce che il pudore è evidentemente alle spalle, no? E questo ha fatto scattare Ferrara prima ancora che ci fosse in realtà un motivo momentaneo del contendere. Il motivo era innescato da prima, tutto lì. Marco da Ferrara inteso come città. Dica, Marco, buongiorno a lei. Buongiorno, io sono juventino e volevo dirle che secondo me, volevo il suo parere più che altro, perché secondo me la Juventus ha poche punte, cioè lassù, cosa vi si è visto nella partita, che c'era Mauri, Diego e basta. Cioè, a me piacerebbe vedere più gente lassù, come sta facendo il Milan, ecco. Volevo sapere il suo parere. Il mio parere è che la Juventus in questo momento è squinternata in tutti i reparti, perché non ci sono uomini in grado di rinviare un pallone elementare sul palo per un corner sbagliato di Pirlo, perché quella non ditemi che era un assist o una prodezza, era un corner sbagliato, no? Perché quando calci un corner rasoterra che passa un metro e mezzo dal primo palo dove c'è il difensore che deve rinviare, è un calcio d'angolo sbagliato. Invece la lisciano in due con una corresponsabilità Felipe Melo Poulsen, ma direi che il brasiliano ha responsabilità più gravi, e la palla schizza dall'altra parte, quindi voglio dire, da quella parte in quel settore la Juventus in questo momento non c'è proprio, né con la testa né con la presenza, salvo Chiellini. A metà campo è meglio che non ne parliamo, davanti non stanno combinando nulla, però a differenza degli altri reparti davanti serve un po' più di alimentazione da parte dei compagni di squadra, no? E quindi mi sembra che il disastro sia generale. Poi sinceramente comincio a pensare che l'assenza di Iaquinta si stia protraendo per non dico troppo, ma in ogni caso per molto tempo, questo è sicuro. Trezeguet si è rifatto male, Amauri più o meno da quando è stato salutato da Lippi come sia pure non ufficialmente come la soluzione ai mali dell'attacco italiano, sappiamo che fine ha fatto. Del Piero è stato a lungo imboccato, ma insomma una volta entrato ha dimostrato che il tempo passa per tutti, e quindi effettivamente il problema mi sembra abbastanza generale. Antonio Padova. Sì, buongiorno. Dica. Senta, premetto che mi diverte molto vedere la Juve, da interista mi diverte molto vedere la Juve in queste condizioni. Dopo volevo dire solo che il problema della Juve, mi dispiace anche per Ferrara, perché il problema è cominciato 3 anni fa con la storia di Moggi, e per sistemare una cosa del genere non è che dall'oggi al domani si possa sistemare. Tutto qua. E dopo l'ultima cosa su Mourinho, volevo dire che con tutti i difetti che può avere, anche contro il Siena in campo c'era Arnautovic e Stevanovic, due diciottenni, ecco, tutto qua. C'era anche Samuel Cetravanti, per la verità, che è stato decisivo alla fine, come usava un tempo all'oratorio. Si ricorda quando giocavamo all'oratorio e alla fine stavi perdendo a 5 minuti alla fine e mandavi davanti a fare il Cetravanti più grande e più grosso? Ci sono i momenti in cui nel calcio ti gira e ci sono i momenti in cui nel calcio non ti gira, e non c'è verso né nell'uno né nell'altro senso. La Juventus era ripartita comunque, era ripartita bene, era ripartita in maniera molto, molto saggia e molto responsabile, con quell'annata gestita da Deschamps, con dei giovani lanciati in prima squadra che appartenevano alla gestione passata da un punto di vista di competenza tecnica e di individuazione, ma che quell'anno con Deschamps erano maturati. Il progetto è andato avanti anche nel secondo anno con Ranieri, e poi la maionese più o meno di colpo è impazzita. Perché? Perché qualcuno in società in particolare ha pensato che i tempi si potessero abbreviare, che potessero esistere delle scorciatoie. Non ci sono nel calcio. Sono stati commessi alcuni errori gravi, sia in acquisti che soprattutto, a parer mio, in cessioni, perché io guardo, vedo molti dei giocatori presenti in rosa da tempo nella Juventus. Non so, se penso a Zebina, vabbè, lasciamo perdere, ma i Grigera o questi non riesco a capire i Criscito cosa abbiano da invidiare a gente come Grigera, per dirne uno, ma anche a Cáceres. Non riesco a capire cosa abbia da invidiare Palladino ad altri giocatori che si sono succeduti. Tenendo questi, c'erano altre risorse economiche da investire invece su ruoli che effettivamente potevano essere scoperti. Marco Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo ritornare sul discorso sempre della Juventus, che lì Ferrara doveva essere un po' umile a fine dello scorso campionato, a dire, quando De Blanc ha preso tempo, a dire: no, io vi ho portato al secondo posto o al terzo, se non ricordo, e secondo posto e basta, è finita lì. Questa è stata la mia brevissima esperienza di 2-3 partite, perché tanto non ha la cultura, non ha la preparazione e soprattutto non ha il polso fermo dell'allenatore. Questo l'ha dimostrato domenica sera nel battibecco con Maifredi, che lui doveva solo stare zitto in silenzio e basta. In più ci sono dei dirigenti che, secondo me, giustamente, come diceva lei prima, non hanno portato avanti la politica perché pensavano che potevano andare incontro alla corazzata Inter. Attenzione, sono tifoso juventino, ho assistito a tutte, eccetto quella del 72, e tutte le finali della Coppa dei Campioni, no? E veramente mi dispiace molto, mi dispiace perché è andato in mano la società a gente che non ha polso. Sembra ieri. 12 gennaio 1969. La Juventus sbanca San Siro battendo l'Inter per 2-1. Il protagonista dell'impresa è il ventenne Pietro Anastasi, centravanti alla prima stagione in maglia bianconera, autore di una doppietta nei primi 10 minuti. Il ragazzo siciliano, che la Juventus aveva prelevato dal Varese, dimostrerà di essere già uno degli attaccanti più forti in circolazione, chiudendo il campionato con 15 reti, 6 in meno del capocannoniere Riva. Pietruzzo Anastasi non l'aveva prelevato, sì, l'aveva prelevato dal Varese, ma strappandolo all'Inter, quindi quella partita ebbe una valenza doppia. Questi sono, è per dire come, e per ricordare come nel, anche nella storia del calcio, non solo in quell'altra, ci sono gli alti e i bassi. Quello era un momento esattamente opposto a questo da un punto di vista di superiorità tecnica, superiorità di risultati, ma anche di potenza e disponibilità economica. Angelo ha chiamato dalla provincia di Bergamo. Buongiorno. Grazie, buona giornata Gigi. Dica. Lei dicendo prima che quelli della Juventus che dovrebbero dare le dimissioni ai dirigenti fosse la prima volta, sa che tanti anni fa Moratti aveva dato le dimissioni come presidente per far sì che tutti gli altri dessero le dimissioni anche loro, i vari Mazzola, i vari Suarez, è vero, i vari Corso. È vero. Lei ha detto che mai nessuno l'aveva fatto. No, beh, quella fu una mossa cosiddetta tattica su cui stenderei un pietoso velo, insomma, ma in ogni caso fu per liberarsi di dirigenti che erano anche suoi amici. Io parlavo invece di dirigenti che licenziano allenatori, e quindi era un po' diversa, ne ripeto, anzi era profondamente diversa. Non si è mai visto o detto un presidente o un dirigente che se ne va lui anziché cacciare un allenatore o dei giocatori responsabili. Lì erano altri dirigenti, quindi era un altro discorso. Parliamo di sospensioni delle partite e di questa diatriba che ha indubbiamente messo di fronte in questi ultimi giorni il ministro degli interni e i responsabili sia federali che arbitrali. Sentiamo Collina. La decisione viene comunque presa da una sorta di unità di crisi che è composta dal delegato UEFA, è composta dal responsabile UEFA per la sicurezza della partita, dal responsabile della sicurezza locale e dal responsabile dello stadio. Queste persone sono quelle deputate a sospendere, per meglio dire, a far fare, perché gli step della UEFA previsti dalla UEFA sono tre: una informativa attraverso un annuncio, una sospensione temporanea della partita e l'abbandono, la sospensione definitiva della partita. Decisione che può essere presa, ribadisco, solamente da queste persone. Dopodiché, ovviamente, gli arbitri non potranno fare altro che adeguarsi a quelle che sono le eventuali modifiche apportate o dal Ministero degli Interni o direttamente dalla Federazione a quelle che sono le previsioni attuali. E questo è un ripasso che Collina ha fatto dopo l'errore procedurale di comunicazione da parte del ministro degli interni, del quale ricorderete l'iniziativa già fallita negli scorsi mesi di introdurre la tessera del tifoso concepita come panacea di tutti i mali. Ha parlato anche il presidente degli arbitri Nicchi di questo aspetto, cioè del fatto di voler dell'iniziativa possibile che potrebbe toccare agli arbitri quale responsabilità aggiunta anche riguardante la sospensione delle partite. Sentiamo Nicchi. Caricare gli arbitri di un'ulteriore responsabilità, bisogna stare attenti perché l'arbitro è già impegnato molto nelle partite a livello tecnico. È difficile per un arbitro dover andare a gestire anche il coro di 7-8 stupidi oppure uno striscione che si trova collocato in una tribuna così preso e concentrato com'è dal gioco. Siamo disposti e disponibili a dare il nostro contributo. Se questo dovesse accadere, ovviamente bisogna fare delle norme nuove che lo prevedano. Oggi non è previsto e noi faremo quello che c'è da fare. Mi sembra oggettivamente un po' difficile non essere d'accordo con Collina e con Nicchi alla luce di un regolamento scritto che è in vigore da tempo e che è stato oltretutto aggiornato su richiesta dell'UEFA nello scorso mese di maggio. Se poi un giorno invece davvero, come gli stessi arbitri hanno detto, toccherà agli arbitri anche questa incombenza in più, vorrà dire che magari al responsabile dell'ordine pubblico toccherà individuare una simulazione oppure decidere se quella ostruzione in area è rigore oppure è soltanto calcio di seconda. Daniel ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Sì, buonasera. Dica. Io vorrei fare una considerazione, non so se mi trovo d'accordo oppure no. Allora, io sono tifoso della Juve e faccio una premessa, a me Ferrara piace. Ora però io penso che, visto che comunque è stato un giocatore appunto della Juve e visto la situazione attuale che coinvolge la squadra, non so se per colpa sua oppure no, però secondo me lui, da signore che penso sia, dovrebbe da solo dare le dimissioni. Non so cosa ne pensa, vorrei sapere la sua opinione. Grazie. Di allenatori che si dimettono ne ho conosciuti pochi. Io credo che quando uno è convinto in buona fede di aver fatto quello che poteva, sbaglia a dare le dimissioni. È una scelta individuale anche questa, che comunque non, secondo me non fa poi questa grande differenza, perché non capisco l'impiccio da parte della società se la società è convinta che un allenatore sia il problema. Non fa altro che liberarsene, insomma, no? Che sostituirlo. Accade ogni giorno in Italia. Credo che quando salterà Ferrara, perché ormai è destinato a saltare, credo che saremo arrivati a 12 su 20, che è il record assoluto di tutti i tempi, no? Quindi che problema è quello? Pretendere le dimissioni da parte della società io posso trovarlo un pochino eccessivo, così come invece potrei trovare più responsabile in certi casi darle davvero le dimissioni, però sono scelte, ripeto, individuali. Non capisco, poi la trovo una questione un po' di rana caprina da parte nostra, no? Perché poi quello che conta è la sostanza. Luca, Milano. Sì, buongiorno. Premetto che seguo pochissimo, da qualche anno, il calcio italiano. A prescindere, sabato ho visto la partita Arsenal-Everton del calcio inglese. Bellissima partita. Mi sembra di aver visto che un giocatore, non so di quale squadra, non mi ricordo, avesse avuto un problema a lingua e si fosse accasciato mentre aveva il pallone tra i piedi. Fatto sta che la squadra deve essere ripartita in contropiede senza fermarsi all'infortunio, ha proseguito l'azione tentando di fare qualcosa che non è riuscita, ma a prescindere da questo non c'è stato, mi sembra di aver visto, nessun giocatore, allenatore, avversario, tifoso che abbia detto niente di tutto quanto, di tutto questo, scusi. Grazie. Grazie a lei. Conte si è dimesso o l'hanno cacciato? Domanda Roberto. Ma io credo che formalmente si sia dimesso, ma che in realtà sia stato in un certo senso costretto a queste dimissioni, ma anche da se stesso. Cioè Conte, l'indirizzo di casa, anziché perderlo con Maifredi, che poi insomma l'ha perso fino a un certo punto Ciro Ferrara, l'ha perso con la tifoseria, l'ha perso col pubblico, abbiamo visto delle sceneggiate abbastanza sgradevoli e comunque non abituali su un campo di calcio, no? E poi c'è stata una coda non ripresa dalle telecamere, in cui Conte è arrivato vicino allo scontro fisico con un paio di capi della tifoseria. Allora possiamo discutere molto a lungo se sia giusto che un allenatore si debba confrontare con i capi della tifoseria, io personalmente lo escludo, ma Conte evidentemente ha capito da sé di avere trasceso. Da lì per esempio il gesto delle dimissioni, nobilissimo, perché è sempre molto più nobile indubbiamente andarsene che farsi cacciare. Su questo, avendolo fatto alcune volte nella mia vita professionale, sinceramente io sto da questa parte, sto dalla parte di chi se ne va, non di chi si fa cacciare, ma mi sembra che la prassi nel calcio, con rare eccezioni, l'ultima è quella di Conte, sia invece di segno opposto. Un minuto e mezzo alla fine, sentiamo Franco, ancora la provincia di Ferrara, che oggi ha stravinto come rappresentanza. Dica. Buongiorno Garanzini, cercherò di essere molto veloce. Riguardo al diciamo bisticcio Maifredi e Ferrara, vorrei solo dire che è sembrato più un agguato a Ferrara che ingenuamente ha boccato, ma che Ferrara ha anche dimenticato che a definire la Juventus squadra da battere, campione, era proprio il suo mentore Lippi. Tutto qui. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, lei ha riassunto un pochino di errori, no, di questa stagione. Io quella di Lippi, per la verità, me la tenevo per fine stagione, perché dato che se ci ricordiamo quante polemiche di aria fritta si fanno. Pensate che quest'estate o a inizio campionato, comunque, lo scontro vero duro qual era? Era quello innescato da Mourinho, perché Lippi a domanda, aveva risposto: boh, insomma, io quest'anno non vedo male la Juventus, penso che potrebbe essere il suo anno. Apriti cielo, secondo Mourinho questo era il segno che c'erano i poteri forti dietro alla Juventus di quest'anno, cioè già oggi basterebbe questa, no, per prendersi la pancia in mano letteralmente dal ridere. E poi ce ne sarebbero tante altre. Comunque sicuramente Lippi aveva sbagliato i pronostici, qualcuno, e cioè Mourinho, aveva sbagliato ad attribuire a quei pronostici chissà che valenza. E poi insomma la lite Ferrara Maifredi ne abbiamo parlato anche troppo, perché si tratta in realtà di piccole miserie. Grazie a Franco Piantanida in redazione, grazie con Flavio Suardi, grazie a Roberto Scaltritti in regia. Appuntamento a domani.